Il punto di Stefano Folli. Salgono i toni fra Italia e Commissione europea, quella ormai in scadenza di Barroso che tuttavia potrebbe ancora come ultimo atto bocciare i conti italiani. La Francia ha già annunciato di voler superare il tetto del 3% per il deficit, l'Italia in apparenza non intende farlo, anche perché non può permetterselo visto il livello stratosferico del debito pubblico. E tuttavia qualcosa scricchiola nella relazione fra Italia ed Europa, la coperta è troppo corta e le esigenze domestiche, ossia la necessità di non perdere consenso, potrebbero imporsi rispetto alla lealtà verso i criteri di Maastricht. Insomma, l'austerità ci strangola, ma senza austerità i mercati finanziari ci sbranano. È un tremendo dilemma per l'ottimista Renzi. In altri momenti il nodo sarebbe sciolto con la soluzione più classica, andando alle elezioni anticipate, poi se ne riparla. Ma non è detto che all'Italia di oggi convenga farlo, visto che non ha ancora nemmeno una legge elettorale ben definita, che non sia quella ritagliata alla belle meglio dalla Corte Costituzionale. Insomma, si va verso un inverno carico di incognite.